Europa 24. Buongiorno da Laura Bettini, Eurogruppo ed Ecofin. Oggi nell'agenda di Bruxelles in primo piano ci sono i chiarimenti sugli squilibri economici proprio dell'Italia. Ci sarà probabilmente il tempo di qualche rapida stretta di mano, poi il lavoro del neo ministro dell'economia Piercarlo Padoan si farà subito duro nel suo esordio a Bruxelles. Padoan dovrà spiegare come intende correggere quegli squilibri eccessivi che hanno messo l'Italia nel mirino dell'Europa pochi giorni fa, in particolare su debito e competitività. Il titolare di Via 20 Settembre fornirà anticipazioni ai colleghi su misure quali riforma del lavoro, riduzione del cuneo fiscale e spending review. Sono vari i piani che si intrecceranno. Il primo riguarda le manovre economiche dell'esecutivo Renzi, con la necessità di equilibrare misure di crescita e coperture economiche che evitino sforamenti nei conti pubblici. Bruxelles ha già chiarito che i fondi europei non possono essere utilizzati per coprire la riduzione delle imposte. Il secondo piano coinvolge proprio i fondi strutturali sprecati per decenni e ora tesoro cui attingere per modernizzare il paese. Oggi giungeranno a Roma le osservazioni del commissario alle politiche regionali Johannes Hahn relativa ai 33 miliardi di fondi per il settennato 2014-2020. Restano nodi da sciogliere legati in particolare alla capacità di gestione amministrativa. Bruxelles esige qualità negli investimenti e trasparenza contabile. Per questo all'Italia viene richiesto uno sforzo ulteriore. Oggi e domani Eurogruppo ed Ecofin cercheranno anche di chiudere sul meccanismo unico di risoluzione delle banche in crisi. In caso contrario si rischia uno slittamento a fine anno per l'unione bancaria. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il lussemburghese Jean-Claude Juncker è ufficialmente il candidato del Partito Popolare Europeo, formazione di centrodestra, alla guida della Commissione Europea. È stato eletto al congresso del PPE a Dublino, distanziato nettamente il rivale francese, ovvero il commissario europeo Barnier. L'intervista di Letizia Markakis di Euronet Plus. Barnier è un commissario di esperienza consolidata, è un ex ministro degli esteri francese e io pensavo che il risultato sarebbe stato molto più risicato. Alla fine non è stato proprio così, dice Juncker. Sono felice di essere stato eletto, ma Barnier non è un mio nemico. Non mi candiderò alle prossime elezioni, risponde poi alla domanda di Markakis, perché non ho intenzione di diventare membro del Parlamento europeo, vorrei diventare presidente della Commissione europea. Se il PPE vince le elezioni, se i trattati sono rispettati, se gli accordi tra i partiti politici vengono onorati, è quasi sicuro che i primi candidati dei popolari siano proposti per essere i prossimi presidenti della Commissione. Così l'intervista a Jean-Claude Juncker. Cambiamo argomento adesso. A causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, l'Italia viola i diritti delle donne che alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978 intendono interrompere la gravidanza. E quanto si legge in un documento del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa in risposta al reclamo collettivo presentato da oltre un anno dalla CGIL insieme ad altre associazioni anche europee. Secondo il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, che lo rende noto, è un atto forte che sancisce un diritto fondamentale e incontrovertibile per le donne, quello della libertà di scegliere della propria vita e del proprio corpo con un'assistenza sanitaria adeguata come prevede la legge. Bene, ci fermiamo qui con questa edizione di Europa 24. L'Europa vi dà appuntamento a questa sera in effetto notte, come sempre a domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.